Basilio, in traccia tosta di Figaro volate, io votei vela. E mio che senta, restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente? Non ha di scusa, innocente. Ma costui quando venne? Che mi rammego quando voi qui deste, e mi sperdi per la padrona intercedervi grazie. Il vostro arrivo mi scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose. Ma se lo stesso m'assisi quando in camera entrai? E allora di dietro io mi cellai. E quando io la mi posi? C'è dunque sentito quel che io ti dicea? E ci per non sentir quanto potea. Oh, perfidia! Gente. E voi restate qui, piccol serpente!